C'è la Verdianina, ci ha preso la pensione o fiaschi? Parlo del fiasco. Quante donne hanno lavorato per rivestire i fiaschi? Tante. Ma io però l'ho saputo dopo, insomma, è stato un lavoro enorme. Di fare un fiasco è mitico. A parte ci mette il vino, va bene, certo. Però è mitico per quello lì. E scusa le donne che non lavoravano in altri posti. Allora con il barroccio spesevano bicchiere e bottiglie, andavano alla vigilia, pigliavano le bottiglie, gli davano la paglia e le bottiglie. Quelle se le portavano a casa. A casa ci lavoravano, i figli fiascavano in quella maniera, li rivestivano e poi la settimana dopo ce li riportavano. E lì per quelli gli pagavano le bottiglie. Ma ce n'erano tantissime di questi barrocci, queste donne che andavano a lavorare le bottiglie. Che mi fa effetto perché noi le fiascherie si aveva fiaschi a casa, però era una cosa che veniva da fuori, non ce n'erano nei paesi fiaschi che si lavoravano alla maniera. Comprava una lamiciana di vino, si metteva in tavola e fiasca, e mamma si andava. Poi, una volta in piedi, si metteva l'olio in cima, se no veniva aceto. E il tacco e il sughero. Sughero, sì. E fiaschi tutti così, impagliati. Sì. Oggi si infiasca il vino, 12, 13, se non della lamiciana nera. I contadini, quando facevano la vendemmia, poi strizzavano l'uva migliore e veniva fuori il vino dolce, chiamato verbea. E si infiascavano quelle carine. E si andava a comprarla a Canuso. Non so, andò a Canuso? Lì c'è la verbea buona. E si andava per Pasqua, c'era la verbea in tavola con la schiacciata. Capito? Della povera. O non la fanno più, è una quella lì. E si infiascava anche quella. Però non aveva tanta durata, come il vino normale. Andava bevuto, sennò piano per il dolce. Ma era speciale. E si infiascava anche quella. In quei fiaschi lì? Sì, tutti impagliati. Il vin santo si metteva soltanto nelle bottiglie. Intanto sì, nelle bottigline c'erano anche delle belle bottigline un po' tutte ricamate, sa, tutte ricamate, insomma. Non era normale. E ci si metteva il vin santo. E anche per Pasqua c'era il vin santo, la verdea. Ciasco mi ricordo tante cose, perché io mi ricordo queste donne quando impagliavano, chiamato la impagliatura, cioè tutte le donne lavoravano a sedere su cosa, li fai tutta a mano, li facevano. Dopo questi fiaschi me li ho portati alle cantine, invece le confezioni, invece le cose qui, me li ho portati alle cantine, si riempiano di vino. A questo è frigiato, era un vino frigiato che era dentro questo fiasco, e gli era buono. Per 7 anni l'ho fatto questo lavoro, ha fatto delle frescobaldi. C'era mio fratello che faceva questi lavori. Schiavo toccato alla fattoria di dice, ma a me mi dispiace dopo, mi ripenso. Ho pensato che se ero stato il lavoro lì, mi andava di più. Mi è venuto in mente che mi davano la fiasca. Non il fiasco, la fiasca, che era quella specie di conto lì, non so come facevano, per cuocere i fagioli. E a me lo davano per andare a prendere il brodo di trippa. Voi arrangiate negli anni 40, capito? Ma adesso che mi è venuto in mente che io facevo queste cose. Ma io fin da piccinina, proprio, a me piaceva. Sempre fatto volentieri. No, rendermi utile. Io sì. Perché vedevo tutte queste fuori donne senza più figlioli, mariti. Mamma mia, un lavoro. Perché sa che qualcuno non è rientrato. Eravamo poveri, ma non poveri, eravamo tutti poveri e felici. Era tanto bello quando allora. Io mi ricordo giocavo con il turrullo delle fiaccole, perché la mia mamma faceva fiasche in cucina e noi si giocava con il rullo. Davvero, sai? Quella è una volta, ma era tanti anni fa. E ti fa commuovere un po'? Sì, mi fa commuovere perché mi ricorda la mia mamma a sedere lei col fuoco qua. Lei era seduta con fiaschi e noi si giocava con questo rullo che fa in fondo. E poi si usava in tavola si usava quei fiaschi lì, fiaschi dell'acqua. Ma mi ricordo una volta ero ragazzetto e si fece una festa da ballo in casa dei miei fuorinomi, no? E c'era uno con la fisarmonia, perché allora c'era la fisarmonia. Era piccolino, era arrancato alto così. E allora dove si fa? Dice, vai, c'era la madia. Ricordi la madia? Si metteva la farina. La farina si faceva il pane. Si metteva a sedella su sopra. Questo, col fiasco vicino e il bicchiere.